Nell'intervista di oggi di Festivals Backpack intervistiamo un artista che tra pochissimo sarà qua a Bologna, tra pochi giorni. In realtà ci siamo già sentiti nel tempo e ci teniamo insomma a festeggiare un po' con lui, perché la data che ci sarà sabato al Locomotive Club è anche un festeggiamento per i 10 anni del primo EP. Ciao Giancane, grazie per essere buongiorno, qua con noi. Buongiorno a tutte e tutti. Grazie a voi di chiamarmi sempre. Come stai? Bene, dai, un po' raffreddato, come forse si può sentire la voce, però da qui a sabato starò un fiore. Benissimo, quindi stavamo dicendo un festeggiamento perché sabato si compiono i 10 anni di Carne, il tuo primo EP. Sì, sono passati 10 anni e non me ne sono nemmeno accorto. È una cosa veramente strana, anche perché era un progetto che, come ho detto anche a voi, nel tempo doveva durare un concerto. In realtà ne ho fatti, non lo so, forse 500, quindi sono molto contento di festeggiare. Abbiamo fatto una scaletta nuova, passiamo da proprio, facciamo l'EP alla vecchia con la cassa, la chitarra, per arrivare poi all'ultimo disco. Prima di parlare della data di sabato, io ti volevo chiedere come ti senti tu dopo 10 anni dal primo EP. Cos'è cambiato in questi 10 anni per te? Beh, dai, un po' di cose sono cambiate, fortunatamente. Però credo di mantenere sempre lo stesso approccio, soprattutto nei live, sempre, cioè, mi diverto sempre, quindi non potrei fare altrimenti. E invece nel settore musicale in 10 anni secondo te è cambiato tanto, soprattutto per il tipo di musica che fai tu, che ricordiamo comunque viene dopo una collaborazione con un'altra band? Insomma, la tua carriera solista è partita 10 anni fa con il primo EP, ma in realtà tu già eri nel mondo musicale, ecco. Come hai visto cambiare in questo decennio la musica? È cambiata e ricambiata, secondo me, sta ancora cambiando. Mi piace l'evoluzione o l'involuzione, a seconda di come la si vuol vedere, ma comunque è un cambiamento rispetto al passato. Sto vedendo che stanno nascendo nuove band, soprattutto di cose suonate. Per un periodo, anche 10 anni fa stesso, la chitarra non era nemmeno presa in considerazione. Adesso le persone suonano di più la chitarra e sono molto felice di questo, anche perché non ho mai smesso di farlo e non credo che lo farò. Sì, poi forse i Maneskin, non lo so, stavo pensando adesso proprio a mente fredda. Prima dicevamo però che insomma tornate un po' a festeggiare sul palco anche alla vecchia maniera, dicevi, insomma, sì, quindi sì, sì. Questo live sarà un po' particolare, per chi ti ha seguito in altri concerti vedrà qualcosa di diverso. Ti va di raccontarci un po' cosa possiamo aspettarci o deve essere una sorpresa? Beh, mi piace che sia una sorpresa, anche perché tutte le scalette di ogni singola data sono diverse e anche l'inizio cambia sempre. Come facevamo 10 anni fa non abbiamo preparato assolutamente nulla, nel senso siamo preparati su quello che dobbiamo fare, però non c'è una programmazione reale se non prima di iniziare a suonare sui pezzi della scaletta, anche perché magari incontriamo qualche vecchio amico nel locale, quindi lo facciamo salire. Può variare molto, però ci sarà una parte che inizieremo in 2 per arrivare poi in 5 o in 6 o in 7, dipende dalle situazioni. Quindi in generale i vostri live sono anche un po' segnati dall'improvvisazione, cioè ti piace un pochino lasciare che il live prenda un po' la sua forma ogni volta diversa? Sì, anche perché sennò penso che ci annoieremo tutti, sia il pubblico che noi. In questo l'abbiamo imparato, guarda, durante i 2 anni che abbiamo suonato, anche durante i 2 anni pandemici, diciamo così. Quindi è diventato più improvvisazione cabarettistica che un concerto per quei 2 estati che abbiamo girato durante quegli anni. Adesso l'abbiamo un po' eliminato perché era diventato tipo che 2 ore parlavamo e mezz'ora suonavamo. Dicevamo, però l'approccio ci è piaciuto, quindi cominciamo, cioè, facciamo proprio, c'è un canovaccio delle canzoni e poi posso dire una parolaccia? Certo che puoi. Ci cazzeggiamo intorno, ecco. Dicevamo che è il compleanno di Carne, quindi del primo EP. Di questo primo EP c'è qualcosa che ti sembra ancora molto attuale e quindi molto spendibile, tra virgolette, anche su temi che nel 2023 sono all'ordine, 2024, guarda, ci stavo pensando proprio mentre abbiamo già fatto 2 date, quindi mentre facevo la scaletta della seconda soprattutto, mi sono reso conto che Mattunò, cantandola, è esattamente ferma 10 anni fa, sia come del contesto intorno che della canzone, cioè quella può essere stata scritta anche ieri. Non so se è un bene, non credo, perché comunque parlo di un sacco di cose che vanno male. Potrebbe essere, tra l'altro, tipo la seconda canzone che abbia mai scritto in vita mia, perché io ho sempre suonato la chitarra, non ho mai scritto canzoni. Soprattutto, per esempio, col Muro del Canto scrivevo la musica insieme agli altri e i testi li mettevo al cantante. Quindi, è strano. Okay. Mi ha fatto strano l'ultimo concerto. Com'è la scrittura? Insomma, dove prendi gli spunti per scrivere? Qual è la tua urgenza magari nello scrivere? Guarda, non ho mai scritto quando sto bene. Ho capito nel tempo che mi serve un po' di sofferenza per scrivere, cioè devo parlare di cose che mi stanno male. È per questo che poi negli anni ho deciso anche involontariamente di non scrivere mai pezzi d'amore. Non ho un pezzo d'amore canonico nel repertorio e ho deciso poi nel tempo di non farlo, perché comunque è un tema che è sciorinato abbastanza da tutti, quindi parliamo solo di altro. Le canzoni d'amore sono fatte per Sanremo poi, no? Sì, infatti, poi tra l'altro. Però pure dopo, non so, forse quelle che non hanno preso, cioè strofinano per tutto l'anno. Però no, ma non per cattiveria verso l'amore, o è proprio che è un tema che ho scelto di non toccare, ma magari un giorno lo farò. Però per ora preferisco parlare di altro. Sono temi che abbastanza importanti anche al di fuori dell'amore. Infatti i temi che affronti spesso sono anche temi sociali. Io quello che ti volevo chiedere, e forse una domanda un po', passami la parolaccia anche a me in questo termine, un po' paracula, perché sei stato definito uno dei cantautori più illuminati della tua generazione. Intanto se ti ritrovi in questa definizione. Decisamente no. E grazie poi, a chi l'ha scritto, l'ho letto anche su Wikipedia, dovrebbe stare. L'ho letto anche su altri articoli, però insomma, anche a me piace molto la tua musica, ma mi piace anche molto il fatto che all'interno delle tue canzoni appunto si parla di temi che sono anche temi sociali, quindi cose che forse per la tua generazione sono anche importanti essere cantate, da sentire cantate, essere nelle canzoni. Quello che ti volevo chiedere è se secondo te la musica funziona ancora come diciamo allarme in un qualche modo per raccontare qualcosa che nella società non va, e se attraverso la musica si riesce anche a mettere in evidenza una certa tipologia di problemi. Beh, sicuramente ancora sì, come abbiamo potuto vedere con Gali e Dargen a Sanremo, c'è stato un sterili invettive contro di loro, ma comunque hanno portato dei temi che al di fuori dell'amore parlano di quello che gli sta intorno. Sono contento perché non si faceva da un po', secondo me, soprattutto a livello mainstream. Spero di sì, perché è quello che ho fatto. Quindi ci credo ancora. Quindi certo, secondo te non è che abbiamo la velleità di dire cambiamo il mondo, no, è un piccolo seme che se viene annaffiato magari può germogliare, se no non esce. Quindi anche guardando sia la tua collaborazione precedente sia il progetto Giancane proprio, che appunto ha 10 anni, secondo te questa cosa nell'ultimo decennio si mantiene ancora, questa capacità di raccontare in maniera molto aperta attraverso le canzoni quello che stai provando e quello che prova la nostra generazione? Sì, è sempre secondo me più difficile, soprattutto se devi seguire delle regole del mercato, perché comunque sia, a me non interessa, quindi lo continuo a fare, però ci si può fare, dai, sì. Ti volevo chiedere, visto che negli ultimi 2 anni sei entrato anche un po' nel mondo delle colonne sonore, insomma, si può dire, no? Soprattutto sì, sì. Con la collaborazione con la serie TV Netflix di Zero Calcare, com'è stato entrare in un mondo così diverso, e se in realtà è così diverso? Guarda, allora, fortunatamente io faccio il mio mestiere principale, almeno fino a un po' di tempo fa, era fare il fonico e il produttore, quindi ho sentito di tutto. Poi fortunatamente ho studiato musica, quindi qualcosa ne so, e devo dire è stato veramente figo, soprattutto in diciamo che la prima serie è stata cominciata a scrivere nel 2020, e scrivere per immagini è molto bello, cioè non l'avevo mai fatto e devo dire che è stato molto figo, e soprattutto mi sono potuto focalizzare sulla musica e non sulle parole, soprattutto per le parti strumentali. Ovviamente sono riuscito a tirare fuori una parte di depressione mia senza parlare, che mi è piaciuto molto, mi sono sentito molto meglio, figo, cioè mi è piaciuto veramente tanto. Spero di rifarlo, ecco. Riguardo a progetti futuri, classica domanda da fine intervista, i tuoi progetti futuri dopo questi primi 10 anni, diciamo, di carriera, che poi non è solo questo decennio la tua carriera, però insomma questi primi 10 anni dopo l'uscita del primo EP segnano una carriera che, diciamo, è ascendente, lo possiamo dire, no? Ma speriamo. Esatto, spero di non avertela tirata con questa domanda, però insomma la domanda vorrebbe essere in prospettiva un'idea di cosa potrebbe succedere in futuro al progetto Giancane. Continuo a scrivere, comunque sto continuando a scrivere canzoni, piano piano le farò uscire, spero di sinceramente non lo so, però spero in altri 10 anni, ecco. Speriamo almeno che vada avanti, sì, dai. Nei prossimi 10 anni c'è qualche collaborazione che in questo decennio non sei riuscito a fare, ma è proprio il tuo sogno? Sì, Max Pezzali sempre. speriamo che Max ci stia ascoltando per poter accettare la tua. Mi raccomando, ti scrivo. Guarda Giancana, io ti ringrazio tantissimo per questa intervista e questa chiacchierata. Ricordo che live sarà sabato sera al Locomotive Club. È praticamente sold out, mancano tipo 10 biglietti, quindi sbrigatevi. Benissimo. E poi mi scrivete, no, non sono riuscito a entrare, ho capito. Va bene, allora ti chiederei se riguardo a questa data hai qualcosa che vuoi dire ai tuoi ascoltatori e alle tue ascoltatrici e se poi scegli anche una canzone per salutarci. Ci vediamo comunque sabato, quindi per me piace stare tra il pubblico, mi piace molto. Quindi ci vediamo per una chiacchierata in ambiente al Locomotive. E metterei Strappati tu voi porti, dai. Una vecchia e una nuova, perfetto. Grazie mille per essere stato qua. Grazie con noi. Te. Ti auguriamo insomma una buona giornata e ricordiamo, ci vediamo sabato. A sabato. Grazie mille.